4 Il ragazzo di marmo. E non dimenticare di comperarmi un giornale della sera, disse la signora Banks nel dare due soldini a Jane abbracciandola. Michael guardò la mamma con aria di rimprovero. Questo è tutto ciò che ci dai? Egli chiese. Che cosa facciamo se incontriamo l'uomo dei gelati? Ebbene, disse la signora Banks con riluttanza, ecco qui un'altra mezza lira, ma voglio dirvi, bambini, che avete troppi capricci. Quando ero bambina io non avevo dei gelati ogni giorno. Michael la guardò con curiosità. Non poteva credere che un tempo la mamma fosse stata anche lei bambina. La signora Banks, con i vestitini corti e i nastrini nei capelli? Ma no, era impossibile. È forse perché, disse con gentilezza, non li meritavi? E mise con cura la sua mezza lira nel taschino del vestito alla marinara. Vi sono 4 soldi per i gelati, disse Jane, e col resto compreremo un mucchio di cose divertenti. Lasciate libero il passaggio, signorina, per favore, diceva una voce altera dietro di lei. Elegante e snella come un figurino, apparve Mary Poppins, tutta linda e agghindata. Scendeva le scale con Annabella. Mise la bambina nella carrozzella e la spinse dietro ai fratelli. Adesso camminiamo in fretta fino al parco, sbuffò, e cerchiamo di far presto. Jane e Michael si incamminarono per il viale con Giovannino e Barbara alle calcagna, mentre il sole dardeggiava sul viale dei ciliegi come un ombrello smisurato. I merli e i tordi cantavano sugli alberi. In fondo all'angolo l'ammiraglio Boom era tutto occupato a falciare il suo prato. Da lontano giungevano echi di una musica militare. Era la banda che suonava al lato opposto del parco. Lungo i viali andavano e venivano ombrellini fioriti e sotto di essi passeggiavano loquaci figure, scambiandosi le ultime notizie. Il guardiano del parco, nella sua uniforme estiva azzurra, con una riga rossa sui pantaloni, aveva un occhio su chiunque passeggiasse attraverso i prati. Osservate le regole, non calpestate le erbe, gettate i rifiuti nei cestini, gridava ad alta voce. Jane, come in un sogno, osservò la scena inondata di sole. È proprio come la musica del signor Twigley, disse con aria felice. Michael appoggiò l'orecchio al tronco di una quercia. Mi pare di poterla sentire crescere, egli gridò. Si sente un suono leggero, dolce, morbido. Sarai ammorbidito in un minuto, filerai subito a casa se non ti spicci, lo ammonì Mary Poppins. È vietato gettare rifiuti nel parco, gridò il guardiano mentre spazzava il viale del Tiglio. Sarete voi un rifiuto, ella disse bruscamente con un movimento sdegnoso del capo. Egli si tolse il cappello e con questo si fece aria al viso mentre la guardava tornare indietro. Dal modo in cui Mary Poppins rideva, si poteva capire benissimo che la sapeva, che il guardiano stava ammirandola. Non indossava ella forse la sua nuova giacca bianca con il colletto, la cintura e i 4 bottoni davanti rosa? Che strada facciamo oggi? Chiese Michael. Staremo a vedere, gli rispose con sossiego. Oh, mi informavo soltanto, osservò il bambino. Non devi, ecco. Ella annuì sbuffando contrariata. Non mi lasci mai dire nulla, mugolò il piccolo da sotto il suo cappello alla sorella. Un giorno o l'altro diventerò muto e allora ne avrà dispiacere. Mary Poppins spinse la carrozzella davanti a sé come se dovesse saltare un ostacolo da corsa. Questa strada, per piacere, ordinò volgendo a destra. Così seppero dove erano diretti. Infilarono infatti il viale che dalla passeggiata del Tiglio conduceva al lago. Oltre i viali folti d'ombra, il laghetto mandava scintillanti e vibranti riflessi nella gran luce luminosa del sole, e i bimbi, eccitati, sentirono il cuore battere con veemenza mentre sbucavano dall'ombra per dirigersi verso quell'incanto. Farò un bastimento e mi imbarcherò per l'Africa, gridò Michael, che nel frattempo aveva dimenticato il suo malumore. Andrò a pescare, gridò Jane, trotterellando vicino a lui. Tra risa e strilli di gioia, buttando in aria i cappelli, arrivarono allo specchio d'acqua sfavillante. Torno torno al lago c'erano verdi panchine, incipriate di polvere, e delle anitre vagavano starnazzando lungo le rive cercando briciole di pane. Ad un'estremità del laghetto stava la statua di marmo in rovina del fanciullo con il delfino. Bianca e luminosa essa spiccava fra acqua e cielo. Il naso del ragazzo era scheggiato e la caviglia mostrava un'incrinatura come un filo che le girasse intorno. Un dito della mano sinistra era spezzato alla giuntura e tutte le dita dei piedi erano screpolate. Stava ritto lassù sul suo alto piedestallo, cingendo delicatamente con il braccio il collo del delfino. La testa dei riccioli di marmo corroso dall'acqua, in attitudine pensosa, coi grandi occhi di marmo. Sulla base del piedestallo, in sbiadite lettere dorate, era scolpito il suo nome, Neleus. «Com'è luminoso oggi!» mormorò Jane, dando uno sguardo al marmo scintillante. E proprio in quel momento ella scorse il vecchio gentiluomo. Stava seduto ai piedi della statua e leggeva un libro con una lente d'ingrandimento. La sua testa calva era riparata dal sole e da un fazzoletto di seta annodato, e vicino a lui, sulla panchina, stava un cilindro nero. I bimbi osservarono la curiosa figura con occhi affascinati. «Questo è il posto favorito di Mary Poppins, ne sarà offesa?» esclamò Michael. «Che cosa dici? Quando mai sono offesa io?» chiese la voce di Mary Poppins alle sue spalle. L'osservazione lo colpì vivamente. «Certo, tu sei spesso offesa, Mary Poppins», disse, «almeno 15 volte al giorno». «Mai!» ella sbuffò irosa. «Sono paziente come un serpente boa. Dico semplicemente quello che penso». E voltandogli le spalle, andò a sedersi sulla panchina esattamente dalla parte opposta a quella della statua. Poi spinse lo sguardo al di là del laghetto e lo fissò sul vecchio gentiluomo. Era uno sguardo che avrebbe ucciso chiunque, ma il vecchio gentiluomo non se ne accorgeva neppure. Continuava a scrutare il suo libro e non faceva attenzione a nessuno. Mary Poppins, sbuffando infuriata, levò dalla carrozzella il cestino da lavoro e cominciò a rammendare le calze. I bambini si sparpagliarono attorno all'acqua scintillante. «Questo è il mio bastimento», gridò Michael afferrando un pezzo di carta colorata dal cestino delle spazzature. «Io pesco», disse Jane e si stese carponi allungando un braccio sull'acqua. Immaginava di avere fra le dita una canna da pesca con l'amo e un verme per esca. Dopo un momento, lo sapeva, un pesce sarebbe venuto pigramente all'amo e avrebbe dato uno strappo al verme. Con uno scatto, ella l'avrebbe acchiappato agilmente e l'avrebbe portato a casa nel suo cappello. «È mai possibile?» esclamerebbe la signora Brill. «È proprio quel che ci voleva per cena». Vicino a lei i gemelli sguazzavano felici sull'orlo dell'acqua. Michael dirigeva la sua nave attraverso una terribile tempesta. Mary Poppins, seduta sulla panchina, agucchiava e intanto cullava disinvolta con un piede la carrozzella. Il suo ditale d'argento scintillava al sole. Il parco era silenzioso, sognante e tranquillo. Boom! Il vecchio gentiluomo chiuse il libro e il colpo turbò la quiete. «Oh, dico!» protestò una vocina dolce. «Avreste potuto lasciarmi finire?» Jane e Michael levarono la testa sorpresi e rimasero attoniti perché là, sul prato davanti a loro, stava in piedi la statuetta di marmo. Teneva il delfino di marmo stretto tra le sue braccia e il piedestallo era vuoto. Il vecchio gentiluomo aprì la bocca, la chiuse e la riaprì. «E dunque, hai detto qualcosa?» disse infine, e le sopracciglia gli si inarcarono sulla fronte. «Sì, certo», replicò il ragazzo di marmo. «Stavo leggendo dietro la vostra spalla, lì», e indicò il piedestallo vuoto. «E voi avete chiuso il libro troppo presto. Desideravo conoscere la fine della storia dell'elefante e vedere come fece a prendere il tronco dell'albero». «Oh, scusami», disse il vecchio gentiluomo. «Non ne ho idea di come finisca. Io termino la mia lettura alle 4, sai, perché devo andare a casa per il tè». Si alzò, piegò il fazzoletto e prese il cilindro nero. «Allora, se lo avete finito», disse calmo il ragazzo, «potete lasciarmi il libro?» Il vecchio gentiluomo si ritrasse, serrando il volume contro il petto. «Oh, non posso, non mi fido», egli disse. «Sai, l'ho appena comperato. Desideravo leggerlo anche quando ero bambino, ma i grandi me lo prendevano sempre, e adesso che ne ho una copia proprio mia, voglio conservarla per me». Con un certo imbarazzo, egli adocchiava la statua come se temesse che potesse prendergli il libro. Posso raccontarti la storia del figlio dell'elefante? Mormorò timidamente Jane al ragazzo. Oh, Jane, vuoi davvero? Gridò egli sorpreso e la sua faccia di marmo si illuminò di gioia, mentre con il pesce fra le braccia faceva una piruetta. E io ti racconterò la storia del cane giallo Dingo, disse Michael, e quella della farfalla che stampava denaro. Protestò il vecchio gentiluomo improvvisamente. Io sono qui con vestito e cappello e lui è completamente nudo. Gli darò il libro, credo, aggiunse, giacché sono destinato a non averlo mai per me. Nell'affidarlo al ragazzo di marmo, diede un lungo sguardo al volume e fece per andarsene in fretta. Ma il delfino cominciò a dimenarsi, richiamando la sua attenzione. Allora si girò di nuovo e gli chiese incuriosito: Di grazia, mi domando come hai fatto a prendere questo cetaceo? Hai adoperato una canna o una rete? Oh, né una cosa né l'altra, rispose il ragazzo con un sorriso. Mi fu dato quando nacqui. Ah, capisco, ammiccò il vecchio signore, benché sembrasse alquanto perplesso. Ebbene, me ne debbo andare. Buongiorno. Salutò educatamente con il suo cilindro nero e si affrettò per il viale. Grazie, gli gridò il ragazzo di marmo mentre apriva il libro con gioia. Sul primo foglio stava scritto con una grafia d'aragno William Weatherhall Wilkins. Cancellerò il suo nome e vi metterò il mio. E il ragazzo sorrise lietamente a Michael e a Jane. Ma come ti chiami e come puoi leggere? Domandò stupito Michael. Mi chiamo Neleo, disse il ragazzo ridendo, e naturalmente leggo con i miei occhi. Ma sei soltanto una statua, protestò Jane. E le statue generalmente non passeggiano e non parlano. Come sei potuto venire giù da lì? Ho fatto un salto, replicò Neleo sorridendo di nuovo mentre scuoteva i suoi ricci marmorei. Ero così deluso di non poter finire quel racconto che avvertii qualcosa di insolito. Ai piedi. Dapprima li sentii contrarsi, poi essi saltarono e da ultimo mi trovai giù sull'erba. Così dicendo, inarcò le dita dei suoi piedini di marmo e ne lasciò l'impronta sul terreno. Oh, esseri umani, quanto siete fortunati di poter fare questo tutti i giorni. Vi ho osservati spesso, Jane e Michael, e desideravo scendere e giocare con voi. Finalmente il mio desiderio è esaudito. Oh, ditemi che siete contenti di vedermi. Con le dita marmoree, egli toccava le loro guance e danzava attorno a loro, frenetico di gioia. Poi, prima che i bambini potessero proferire una parola di benvenuto, corse come una lepre alla riva del laghetto e immerse una mano nell'acqua. Oh, ecco com'è l'acqua! Gridò. Profonda, azzurra e leggera come l'aria. Si chinò sul lago scintillante e il delfino, con un guizzo della coda, scivolò dalle sue braccia sollevando grandi spruzzi attorno. Prendilo, si annegherà! Gridava Michael affannato. Ma il delfino non faceva nulla di tutto ciò. Nuotava, tutto felice. Si immergeva e acchiappava la coda con la bocca, saltava in aria e si immergeva di nuovo. Pareva di essere al circo. E quando saltò, gocciolante, nelle braccia del suo padroncino, i bambini non poterono fare a meno di applaudire. Era bello? Chiese con una certa invidia Neleo. E il delfino mostrava i denti annuendo. Bello, gridò dietro a loro una voce ben nota. Io lo direi estremamente stupido. Mary Poppins stava in piedi sulla riva del lago, gli occhi scintillanti come il suo ago da rammendo. Neleo corse ai suoi piedi con un piccolo grido e chinò la testa davanti a lei. Pareva molto giovane, piccolo e timido, mentre attendeva che parlasse. Chi ti ha detto che potevi scendere? Domando io. E il viso di lei aveva la ben nota espressione di collera. Egli scosse il capo con aria colpevole. Nessuno, si scusò. I miei piedi saltarono giù da soli, Mary Poppins. Allora farebbero meglio a saltar su di nuovo, immediatamente. Non hai il diritto di essere giù dal tuo piedestallo. Neleo alzò la sua testa di marmo e il nasetto rotto brillò al sole. Oh, non posso proprio star giù, Mary Poppins, implorò. Lasciami almeno per un momento giocare con Jane e Michael. Non sai quanto sono solo lassù, a colloquio soltanto con gli uccelli. Gli ardenti occhi marmorei cercarono di commuoverla. Oh, per favore, Mary Poppins, egli mormorò con dolcezza, congiungendo le manine di marmo. Mary Poppins guardò giù, pensierosamente, per un momento, come se volesse concentrare le idee. I suoi occhi infine si addolcirono. Un leggero sorriso apparve sulla sua bocca, scavando una fossetta sulla guancia. «Bene, soltanto per questo pomeriggio», disse. «Questa volta soltanto, Nelio, e mai più. Mai più, te lo prometto, Mary Poppins!» E fece un risolino malizioso. «Tu conosci Mary Poppins?» domandò Michael. «Dove l'hai conosciuta?» Egli voleva sapere, si sentiva un po' geloso. «Oh, ma certo che la conosco!» esclamò Nelio ridendo. «È una vecchia amica di mio padre!» «Come si chiama tuo padre? Dov'è?» Jane ardeva dalla curiosità. «Oh, molto lontano, nell'isola della Grecia. Si chiama il Re del Mare». Mentre parlava, gli occhi marmorei di Nelio si riempivano a poco di tristezza. «E che cosa fa?» domandò Michael. «Va anche lui in città come il babbo?» «Oh, no, egli non va mai in nessun luogo. Sta su una roccia in mezzo al mare con il suo tridente e soffia nel suo corno. Vicino a lui sta seduta mia madre che pettina i suoi capelli e Peleo, che è mio fratellino minore, gioca ai loro piedi con una conchiglia di marmo. Per tutto il giorno i gabbiani volano intorno a loro formando delle ombre scure sui loro corpi di marmo e recano loro le notizie del golfo. Di giorno essi guardano le navi dalle vele rosse che vanno e vengono nella baia. E di notte ascoltano il mormorio delle acque scure come vin nero che si infrangono sulla sponda sottostante. «Com'è bello!» esclamò Jane. «Ma perché li hai lasciati?» Per conto suo, ella pensava che non avrebbe mai, mai lasciato il babbo e la mamma e Michael soli sulle rocce della Grecia. «Nemmeno io volevo lasciarli», disse il ragazzo di marmo. «Ma che cosa può fare una statua contro la volontà degli uomini?» Venivano sempre ad ammirarci, toccando, guardando e scrutando con curiosità le nostre braccia. Dicevano che eravamo stati fatti molto tempo fa da un famosissimo artista, e un giorno uno di loro disse: «Questo lo prendo io», e mi additò. Così io dovetti andarmene. Nascose un momento gli occhi dietro le pinne del delfino. «E che cos'è capitato poi?» domandò Jane. «Come sei arrivato fino al nostro parco?» «In una cassa d'imballaggio», disse calmo Neleo, e rise, vedendo il loro sguardo di stupore. «Noi viaggiamo sempre così, sapete? La mia famiglia è molto richiesta. La gente ci vuole per i parchi, i musei e i giardini, ci comprano e ci spediscono come pacchi postali. Non capita mai loro di pensare che uno di noi può sentirsi solo». Su questa parola si arrestò un momento, come se gli mancasse il respiro. Poi sollevò il capo con un gesto stanco ed esclamò: «Ma non pensiamoci più. Sono stato molto meglio da quando voi siete venuti. Oh, Jane e Michael, vi conosco così bene, come se faceste parte della mia famiglia. Conosco il cervo volante, il compasso di Michael e la scodella di Dalton e Robertson Hay e tutto ciò che mangiate a cena. Non mi avete mai notato mentre vi ascoltavo e leggevo le parole sopra le vostre spalle?» Jane e Michael battevano le mani dalla gioia. «Conosco Alice nel Paese delle Meraviglie a memoria», continuò, «e quasi completamente Robinson Crusoe e tutto ciò che una signora deve sapere», che è il libro prediletto di Mary Poppins. «Ma le letture che mi piacciono di più sono le storie comiche e a colori, specialmente quella che si chiama Un sacco di risate». «Che cosa è capitato alla tigre Tim questa settimana? Ha potuto scappare sana e salva dallo zio Mopsy?» «Ah, l'ultimo numero esce domani», disse Jane. «Lo leggeremo insieme». «Oh, cara, come sono felice!» gridò Nelio. «Il figlio dell'elefante è il nuovo numero di Un sacco di risate? Le mie gambe diventano leggere come ali di uccello. Non so quando è la mia festa, ma credo che debba essere oggi». E stringendo il delfino e il libro tra le braccia, il bambino di pietra corse a fare capriole nel prato. E trin trin trin trin trin! Il gelatiere scampanellò e, gettando il suo grido di richiamo, spingeva il suo carretto verso il lago. Dinanzi al carrettino stava scritto a caratteri stampati: «Fermati e comprane uno. Che bel tempo, magnifico!» «Alt! Alt!» gridavano a squarciagola i ragazzi, correndo insieme verso il carrettino. Cioccolato! Disse Michael. Limone! Gridò Jane. Anche i rubicondi gemellini allungarono le braccia e presero felici ciò che veniva loro offerto. E che cosa desideri tu? Disse il gelatiere quando Nello si fermò timidamente presso di lui. Non so che cosa scegliere, disse Nello. Non ne ho mai assaggiato prima. Come? Non hai mai avuto un gelato? Hai forse uno stomaco così delicato? Oh, un ragazzo come te deve conoscere il gusto di tutti i gelati, su via. Il gelatiere affondò il braccio nell'apertura del carrettino e gli porse un grosso cono di gelato a lampone. Prendi questo e dimmi se ti piace. Nello prese il cono con le sue dita di marmo, ne diede la metà al delfino e cominciò a leccare l'altra metà. Un delizioso, egli disse. Molto meglio delle alghe marine. Le alghe marine? Che cosa hanno da fare le alghe marine con questo? Ma a proposito di alghe marine, che bel merluzzo hai! Il gelatiere tese la mano verso il delfino. Se lo porti dal pescivendolo, te lo pagherà profumatamente. Il delfino, indignatissimo, diede un guizzo e assunse un'espressione indignata. Oh! S'affrettò a dire Nelio. Non voglio certo venderlo, non è soltanto un pesce, ma un amico. Uno strano genere di amico, disse l'uomo. Perché non ti dice di vestirti? Finisci per morire correndo così all'impazzata tutto nudo. Insomma, non voglio offenderti. Tin tin tin tin! Il gelatiere corse via allegramente, fischiettando e suonando il suo campanello. Nelio guardò i ragazzi con la coda dell'occhio e tutti e tre scoppiarono in una bella risata. Oh, poveretto! Gridò Nelio tirando su il fiato. Crede che io sia un essere umano e debbo correre e dirgli che si sbaglia e che per 2000 anni non ho mai indossato vestiti e non ho mai avuto un raffreddore. Stava appunto per correre verso il carretto quando Michael sbottò in un'esclamazione. Guardate, arriva Willoughby! Esclamò e ingoiò di un fiato quanto gli rimaneva del gelato, perché Willoughby, che apparteneva alla signorina Lark, aveva l'abitudine di afferrare i bambini e prendere loro quanto avevano di buono in mano. Era un cagnaccio dai modi volgari e rozzi che non rispettava nessuno. Ma che cosa ci si poteva aspettare di buono da un cane che era mezzo lupo e mezzo bulldog e possedeva le qualità peggiori delle due razze? Arrivò con la lingua fuori e saltellando sull'erba. Andrea, che era tanto distinto quanto Willoughby era volgare, gli correva elegantemente dietro e la stessa signorina Lark lo seguiva trafelata e strillava: solo un giretto di 1 minuto prima del tè. Era così una bella giornata che i cani volevano assolutamente uscire. Ma santo cielo! Che cosa vedo mai? Ella si arrestò ansante e squadrando Nelio. La sua faccia, già paonazza per natura, diventò ancora più accesa. Si vedeva che era estremamente indignata. Sei un malvagio ragazzo! Gridava. Che cosa stai facendo a questo povero pesce? Non sai che fuori dall'acqua muore? Nelio sollevò le sopracciglia di marmo. Il delfino portò la coda alla bocca per nascondere un sorriso. Vedi come si dibatte? Disse la signorina Lark. È già in agonia. Devi rimetterlo subito, immediatamente, nell'acqua. Oh, non posso, disse in fretta Nelio. Temo che sia troppo solo senza di me. Cercava di essere gentile con la signorina Lark. Non così il delfino che scuoteva la coda e si agitava, sghignazzando in modo davvero sconveniente. Non replicare. I pesci non si sentono mai soli. Stai facendomi delle scuse proprio sciocche. La signorina Lark ebbe un gesto di collera verso la panchina verde. Sapete, Mary Poppins, vedo che dovreste dare un'occhiata ai bambini. Questo ragazzaccio, chiunque gli sia, deve rimettere il pesce dove l'ha preso. Mary Poppins concesse uno sguardo alla signorina Lark. Temo che sia impossibile, signorina, dovrebbe andare troppo lontano. Lontano o vicino non importa, deve rimetterlo nell'acqua immediatamente. Tanta crudeltà verso gli animali non è permessa. Andrea e Willoughby, venite con me. Corro subito ad avvertire il sindaco. E si affrettò via, brontolando con i due cani alle calcagna. Willoughby, passando vicino al delfino, strizzò poco educatamente l'occhio. E ditegli di mettersi dei vestiti. Sarà completamente ustionato dal sole correndo così tutto nudo. Gridava ancora la signorina Lark, accelerando la corsa. Nelio rise di cuore, rotolandosi nell'erba. Ustionato dal sole, diceva scandalizzato. Oh, Mary Poppins, nessuno capisce dunque che son fatto di marmo. Rispose Mary Poppins, e Nelio le lanciò un sorrisetto malizioso. Questo è ciò che dicono i leoni marini, egli esclamò. Si siedono sulla roccia e fanno fino al tramonto. Davvero? Osservò Mary Poppins severamente. E Jane e Michael aspettavano tremanti quello che certamente sarebbe seguito. Ma non capitò proprio nulla. La faccia di Mary Poppins rispose con uno sguardo d'intesa maliziosa e gli occhi azzurri e gli occhi marmorei si sorrisero gentilmente. Nelio, ella aggiunse calma, hai ancora 10 minuti, puoi venire con noi al chiosco dei giornali e ritornare. E poi? Egli chiese con uno sguardo interrogativo, stringendo le braccia attorno al delfino. Ella non rispose, ma continuò a guardare al di là del lago scintillante, accennando al piedestallo. Oh, non può stare più a lungo, Mary Poppins. I bambini cominciavano a protestare, ma l'implorante domanda si gelò sulle loro labbra perché Mary Poppins li osservava. Ho detto 10 minuti, ella sottolineò, ed intendo 10 minuti. E non guardatemi così, non sono uno spaventoso gorilla. Oh, non cominciate a inquietarvi, gridò Nelio. Non dobbiamo sprecare neppure un secondo. Corse loro vicino e, afferrando la mano di Jane, mostrami la strada per il chiosco, disse, e la sospinse nella chiara luce del sole verso i prati folti di erba. Dietro a loro Mary Poppins spingeva i gemelli nella carrozzella e si affrettava con Michael. Sull'erba alta e folta dell'estate, Jane e il ragazzo di marmo correvano leggeri. I riccioli di lui ondeggiavano al vento insieme a quelli di lei e il respiro caldo della bambina accarezzava le guance marmoree. Fra le dita vive e calde di Jane, la mano di marmo diventava sempre più calda. «Ecco la strada!» Ella disse, stringendogli il braccio e additandogli la passeggiata del tiglio. Al lato opposto, vicino alla porta principale, c'era il chiosco dipinto a festosi colori. Piantata sul chiosco, una grande insegna diceva: Signor Folli, libri, giornali e riviste, voi li desiderate e io li ho per voi. Riviste colorate erano appese torno torno al chiosco, come vivaci festoni, e non appena i bambini arrivarono, il signor Folli sbucò dalla parete variopinta. Egli aveva un viso sereno, rotondo e pacioso. Pareva che nulla al mondo potesse turbarlo. Bene, ecco qui Jane Banks e un amico, osservò bonariamente. Credo di poter indovinarne. Che cosa volete? Notizie della sera e un sacco di risate, ansimò Jane mentre poneva sul banco la moneta. Nelio si impossessò del giornalino illustrato e ne voltò le pagine con furia. La tigre Tim riesce a salvarsi? Gridò Michael arrivando trafelato subito dopo di loro. Sì, si salva! Gridò Nelio con un grido di gioia. Ascoltate, la tigre Tim sfugge agli artigli dello zio Mapsi. La sua nuova avventura con il vecchio dalla faccia di cane. Aspettate la prossima settimana una nuova storia della tigre Tim. Urrà! Gridò Michael, facendo capolino sulla spalla del delfino per poter gettare uno sguardo sulle illustrazioni. Il signor Folli stava adocchiando Nelio con grande interesse. Che magnifico squalo hai qui, ragazzo mio, è quasi come un uomo. Dove l'hai preso? Non l'ho preso, disse Nelio guardandosi attorno. Mi è stato dato in regalo. Ah, che fantasia! Bene, ti farà buona compagnia, ma tu da dove vieni? Dov'è tua madre? È lontana, molto lontana, rispose Nelio gravemente. Male, male, il signor Folli scrollò la testa. Anche papà è lontano? Nelio sorrise, annuendo. Non me lo dire, santo cielo, come devi essere solo! Il signor Folli guardò il corpicino nudo di marmo. Devi avere un gran freddo, immagino, senza uno straccio addosso. Fece tinire delle monete in tasca e porse una mano a Nelio. Tieni. Comprati qualcosa da metterti addosso. Non puoi andare in giro senza niente. Potresti buscarti una polmonite, sai? E anche i geloni. Nelio guardò la moneta d'argento che luccicava sul palmo della sua mano. «Questo cos'è?» chiese con curiosità. «Questa è una mezza corona», spiegò il signor Folli. «Non mi dirai che non ne hai mai vista una?» «No, davvero che non ne ho mai viste», disse Nelio sorridendo. Anche il delfino guardava con interesse la moneta. «Perbacco, dico, sei proprio un povero diavolo, così nudo e capace di ignorare la forma di una mezza corona. Qualcuno dovrebbe prendersi cura di te». Il signor Folli lanciò un'occhiata di rimprovero a Mary Poppins, che gli rispose con uno sguardo di regina offesa. «Qualcuno sta prendendosi cura di lui», ella disse, e mentre parlava slacciò la sua nuova giacca bianca e l'accomodò sulle spalle di Neleo. «Ecco», commentò con rabbia, «così non prenderà un raffreddore e non ringrazierà il signor Folli». Neleo guardava ora la giacca e ora Mary Poppins, e sgranando tanto d'occhi. «Ma la posso tenere? Sempre?» egli chiese. Mary Poppins fece segno di sì e guardò lontano. «Oh, caro, caro il mio leone marino, grazie!» egli gridò e l'abbracciò alla vita con le sue braccia di marmo. «Guardami, Jane, con la mia nuova giacca bianca! Guardami, Michael, con i miei magnifici bottoni!» E correva eccitatissimo da uno all'altro per mostrar loro la sua nuova ricchezza. «Giusto quello che ci voleva!» disse il signor Folli raggiante. «Così sei più sicuro e io non sono affatto offeso. Con la mezza corona comprerai un bel paio di pantaloni». «Non questa sera», l'interruppe Mary Poppins. «Nelio, siamo in ritardo e lui pure. A casa ora e di buon passo. Vi prego di non indugiare più». Il sole stava tramontando dolcemente mentre ella spingeva la carrozzella per il viale del Tiglio. La banda e l'ultimo tratto del parco erano silenziosi, gli ombrellini fioriti erano andati tutti a casa, gli alberi stavano rigidi e immobili nell'ombra. Anche il guardiano del parco se n'era andato chissà dove. Jane e Michael passeggiavano al fianco di Nelio e lo tenevano per mano. Il medesimo silenzio pesava sui bambini di carne e sul bambino di marmo. «Ti voglio bene, Nelio», disse Jane con dolcezza. «Desidero che tu sia con noi per sempre». «Anch'io ti voglio bene», egli rispose sorridendo. «Ma devo ritornare, l'ho promesso». «Penso che potresti lasciare il delfino», disse Michael accarezzando le pine di marmo. «Oh, Michael, come puoi essere così egoista? Ti piacerebbe forse passare la vita tutto solo su di un piedistallo?» «Certo che mi piacerebbe se potessi avere il delfino e chiamare Mary Poppins leone marino». «Ti dirò, Michael», fece Nelio rapidamente. «Non puoi avere il delfino perché fa parte di me stesso, ma la mezza corona te la darò». E fece scivolare la moneta nella mano di Michael. «Jane avrà il libro», continuò. «Ma promettimi, Jane, con una mano sul cuore, che me lo lascerai leggere sopra le tue spalle. Ogni settimana devi venire sul banco e leggermi il nuovo numero di un sacco di risate». Diede al libro un ultimo sguardo e lo mise sotto il braccio di Jane. «Te lo giuro, Neleo», ella disse solennemente mettendo una mano sul cuore. «Ti aspetterò», disse Neleo dolcemente. «Non ti dimenticherò mai più». «Su, camminate e non chiacchierate», incalzò Mary Poppins voltandosi verso il lago. La carrozzella scricchiolava scorrendo sulla ghiaia, ma oltre allo scricchiolio essi intesero una ben nota voce. Si misero a camminare in punta di piedi dietro a Mary Poppins, che se ne andava verso l'acqua scaturita dall'ombra. «Mai ho fatto questo», protestava la voce, «mai l'avrei fatto, quand'anche mi aveste pagato». All'estremità del lago, vicino al piedestallo vuoto, stavano ritti il sindaco e due magistrati, e davanti ad essi, gridando e agitando le braccia, si comportava in modo strano il guardiano del parco. «Non è colpa mia, vostro onore», perorava. «Vedete, posso sostenere il vostro sguardo». «Che sciocchezze, Smith», diceva il sindaco severamente. «Voi siete il solo responsabile delle statue del parco, e soltanto voi potete aver fatto questo». «Fareste meglio a confessarlo», ammoniva il primo magistrato. «Ciò non vi salverà, naturalmente», aggiungeva il sindaco, «ma vi sentirete tanto meglio quando l'avrete detto». «Ma non ho fatto nulla, nulla, ve l'ho già detto!» E il guardiano del parco agitava le mani come un ossesso. Basta con le vostre bugie, Smith. Mi fate perdere tempo. Il sindaco scuoteva il capo con impazienza. Prima di tutto devo andare a cercare un ragazzo nudo che, mi dicono, maltratta un disgraziatissimo pesce. Un salmone, ha detto la signorina Lark, o un cetaceo. E ora, come se ciò non bastasse, non trovo più sul suo piedestallo la statua di maggior valore che abbiamo. Sono scandalizzato e disgustato. Avevo fiducia in voi, Smith, ed ecco come mi ripagate. Sto cercando, sapete, non so più dove ormai, oh, non so più nemmeno quel che dico. Vostra grazia, io so soltanto che non ho mai toccata quella statua. Il guardiano si guardava attorno in cerca di aiuto e i suoi occhi caddero su Mary Poppins. Gli sfuggì un grido di trionfo e di orrore e levò un braccio per accusare. Ecco, vostra signoria, ecco la colpevole. Lei lo ha fatto, o che mi taglino la testa. Il sindaco guardava attentamente ora Mary Poppins, ora il guardiano. Sono mortificato per voi, Smith, e scosse la testa con disapprovazione. Addossate la colpa su una giovane, innocente e perfettamente rispettabile signorina che un pomeriggio si prende un po' di svago all'aria aperta? Come potete? Egli si inchinò cortesemente verso Mary Poppins, che gli rispose con un sorriso veramente da gran dama. Lei, innocente? Continuava a strillare il guardiano. Sua signoria non sa che cosa sta dicendo. Non appena questa ragazza entra nel parco, tutto va alla rovescia. Fuochi di gioia nel cielo, gente che arriva sui cervi volanti e sui razzi, il primo ministro che se ne viene ciondolando su un pallone. Tutto questo capita quando c'è lei. Siete Calibano. Ed egli puntava il dito su Mary Poppins. Poveretto, poveretto, la sua mente vacilla, disse il primo ministro con tristezza. Forse è meglio mettergli le manette, mormorò nervosamente il secondo. Fate di me quel che volete, impiccatemi anche, ma io non dovrei esserlo. Sopraffatto dalla sua sfortuna, il guardiano del parco si rovesciò sul piedestallo e pianse amaramente. Mary Poppins si volse e fece un cenno di invito a Neleo. Egli corse a lei, sui piedi di marmo, e chinò la testa, gentilmente, aspettando. «E ora?» mormorò girando in su. Ella fece cenno di sì, in fretta, e poi, chinandosi, lo prese fra le braccia e baciò la sua fronte marmorea. Per un momento Neleo si strinse a lei come se non volesse lasciarla mai più. Poi la lasciò, soffocando un singhiozzo. «Addio, Jane e Michael. Non dimenticatemi!» Accostò la sua gelida guancia di marmo alle loro e, prima che potessero proferire parola, era scappato via nell'ombra e correva verso il suo piedestallo. «Non ho mai avuto fortuna!» piangeva il guardiano. «Mai, fin da quando ero bambino!» «E non l'avrai nemmeno ora, caro mio, a meno che tu non rimetta a posto la statua!» E il sindaco lo guardò con occhio irato. Ma Jane e Michael, troppo intenti a osservare se una testa ricciuta appariva sul piedestallo, non miravano né il guardiano né il sindaco. Neleo si issò sul suo sostegno, tirandosi dietro il delfino. E ora il suo corpo di marmo splendeva bianco e scintillante nella luce perlacea del crepuscolo. Con un gesto, a metà gaio e a metà triste, sollevò una manina di marmo per salutarli. Mentre i bambini rispondevano al saluto, egli parve che tremasse, ma forse era l'effetto delle lacrime nei loro occhi. Osservarono che egli stringeva a sé il delfino così affettuosamente, quasi volesse fondere assieme i loro due corpi di marmo. Poi lisciò i suoi ricci con la mano, chinò il capo e rimase immobile. Persino la giacca bianca e rosa di Mary Poppins parve diventare marmo senza vita. «Non posso rimetterlo a posto se non l'ho mai preso!» continuava a protestare fra i singhiozzi il guardiano del parco. «Ora, guardami, Smith!» cominciò il sindaco. Poi fece un grido e vacillò da una parte e dall'altra, reggendosi la fronte con le mani. «Santi numi, è tornato!» egli gridò. «E vi è qualcosa di mutato in lui!» Scrutò la statua più da vicino e scoppiò in risate di soddisfazione. Si tolse il cappello, lo agitò freneticamente e batté sulla spalla al guardiano del parco. «Smith, brigante! Così volevi tenere il segreto, eh? Perché non ce l'hai detto subito?» È certamente una magnifica sorpresa, perché ora non vorrai continuare a dire che, in quanto al guardiano del parco, sbalordito e senza parola, stava lì, stralunato, davanti a Nelio. Signori, il sindaco si volse verso i due magistrati. Disgraziatamente abbiamo giudicato male quest'individuo. Egli stesso ci ha provato ad essere non soltanto un fedele servo della società, ma anche un artista. Avete visto che cosa ha fatto alla statua? Ha aggiunto un giacchettino con colletto e polsini rosa. Un felice provvedimento, secondo me, Smith. Non ho mai approvato le statue nude. Nemmeno io, assentì con un cenno del capo il primo magistrato. Certamente, no, fece eco il secondo. Non temere, mio caro Smith. Sarai ricompensato. Da oggi il tuo salario sarà aumentato di uno scellino ed una riga in più sarà cucita sui tuoi pantaloni. Inoltre parlerò di voi a Sua Maestà quando farò il mio prossimo rapporto. E il sindaco, con un altro inchino cerimonioso a Mary Poppins, se ne andò maestosamente, umilmente seguito dai due magistrati. Il guardiano del parco, come chi non è sicuro di ragionare con la propria testa e di stare sulle proprie gambe, li guardava attonito. Poi, rivolti gli occhi stralunati alla statua, la guardò ancora una volta. Il ragazzo di marmo e il suo marmoreo pesce guardavano pensierosi come sempre il lago. Erano quieti e immobili come sempre erano stati. Adesso su, andiamo a casa, non fatevi tirare. Mary Poppins levò un dito imperioso e i bambini la seguirono senza fiatare. La mezza corona solida, scintillante e splendente riposava nel palmo di Michael. Sotto il braccio di Jane vi era il libro, freddo come la mano marmorea di Neleo. Camminavano in silenzio, assorti nei loro segreti, quando udirono sul prato dietro a loro un rumore di passi. Si volsero e videro il guardiano del parco che correva pesantemente per raggiungerli. Aveva tolta la sua giacca e la agitava come una bandiera rossa e azzurra all'estremità della sua canna da passeggio. Ansimando, giunse alla carrozzella e offrì la giacca a Mary Poppins. Prendetela, disse senza fiato. Ho guardato appena ora il ragazzo di marmo che è tornato. Egli ha indosso la vostra giacca con i quattro bottoni in rosa e voi ne avete bisogno ora perché l'aria sta rinfrescando. Mary Poppins tranquillamente prese la giacca e se la pose sulle spalle, e il suo sorriso di altera condiscendenza si rifletté nei lucenti bottoni di metallo. Grazie tante, ella disse con alterigia al guardiano del parco. Egli rimase davanti a lei in maniche di camicia, scuotendo la testa come un cane. Spero che voi comprendiate che cosa significa questo, egli disse con arguzia. Suppongo, rispose sbrigativa e senza aggiungere altro diede una leggera spinta alla carrozzella e andò oltre. L'uomo rimase ancora lì ad ammirarla, sporgendo il viso per vederla varcare il cancello del parco. Il signor Banks, che li attendeva alla finestra di casa, lanciò loro un fischio non appena apparvero sul viale. Ebbene, Mary Poppins, la salutò. Siete molto elegante nella vostra giacca rossa e azzurra. Vi siete iscritta nell'esercito della salvezza? No, signore, replicò lei pronta, e lo sguardo che gli rivolse mostrò chiaramente che non avrebbe aggiunto spiegazioni. Con furia, Jane intervenne. È la giacca del guardiano del parco. E Michael aggiunse, gliel'ha data proprio adesso. Che dite mai? Smith le ha dato la giacca della sua uniforme? E perché mai? Esclamò il signor Banks. Ma Jane e Michael erano diventati immediatamente muti, sentivano gli occhi acuti di Mary Poppins fissi come spilli sulle loro teste e non osarono più continuare la loro spiegazione. Ah, ebbene, non importa, disse il signor Banks con calma. Penso che ella gli avrà reso qualche servigio. I bambini annuirono, ma sapevano benissimo che egli non avrebbe mai saputo quanto era capitato, nemmeno se fosse vissuto 100 anni. Essi percorsero il viale del giardino sotto lo sguardo paterno, tenendo ben stretti la moneta e il libro. E quando arrivarono, pensarono al fanciullo che aveva loro offerto quei doni, al ragazzo di marmo, che per una breve ora aveva ballato e giocato con loro nel parco. Ora lo immaginavano tutto solo sul suo piedestallo, con il braccio affettuosamente stretto al delfino, per sempre silenzioso, per sempre fermo, senza più la dolce luce che aveva illuminato di vita il suo sorriso. L'oscurità sarebbe caduta su di lui, le stelle e la notte l'avrebbero ben presto avviluppato completamente. Solo e pensieroso, sarebbe rimasto là, guardando le acque del laghetto e sognando l'immenso mare e la sua casa tanto lontana.